Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Si è da poco concluso a Verona Progetto Fuoco, una delle più importanti fiere a livello internazionale per il mondo dei sistemi di riscaldamento a biomassa, dalle caldaie a legna alle stufe a pellet. Come ogni anno non sono mancate le start-up, molte delle quali concentrate su due fronti: la messa a punto di nuovi sistemi di combustione a basse emissioni di particolato e l'allargamento del ventaglio delle biomasse solide da combustione. Oggi in pratica si brucia solo legno. Andrea Ferro ha raccolto per noi le voci di alcuni degli start-up presenti alla manifestazione e noi li ascoltiamo. Nome e cognome? Daniele Della Toffola. La vostra azienda, la vostra ditta, la vostra start-up? Bluecomb SRL, sono una ditta a Udine con una sede operativa nel Pordenonese, San Vito il Tagliamento. Se dovesse in un telegramma raccontare cosa fate, come mi risponderebbe? Che in realtà è una storia lunga, perché parte 10 anni fa, parte dall'Africa, dove un professore universitario ci ha raccolto, insomma, un gruppo di inventori per fare un fornellino da portare nei paesi in via di sviluppo. E attorno a questo fornellino abbiamo fatto un'esperienza, insomma, di una decina d'anni in diversi paesi africani, imparando ad utilizzare biomasse diverse e in contesti diversi a scopo di cucinare senza far fumo. E poi, una volta fatta questa esperienza in Africa, abbiamo detto: ma perché non mettere dentro questo fornelletto anche in una stufa in Italia? E così è partita una sperimentazione che ci ha fatto poi partire come una startup. Il risultato è che ci sono delle ottime performance. Allora, innanzitutto per l'Africa abbiamo prodotto una roba a basso costo, facile da costruire, ma soprattutto per un trasferimento della conoscenza agli africani, che imparassero da sé a produrla, a costruirla e a farla funzionare. E parimenti, anche qua da noi abbiamo una stufa che fa pochissime emissioni, per cui non è come particolato? Particolato molto basso, perché il segreto è che attraverso un processo di pirolisi trasforma la biomassa, nel nostro caso lavoriamo bene con il pellet, lo trasforma in gas, e noi bruciamo questo gas grazie all'introduzione di arie secondarie che apportano un comburente. È il risultato che un tappo di fiamma processa tutti questi gas come se li filtrasse. Ecco quindi che tutti i gas sono bruciati e le polveri sottili sono processate, per cui abbiamo bassissime emissioni di entrambe proprio. Ci possono essere altri ambiti di applicazione? Sì, la nostra soluzione ha una particolarità che viene definita batch, ovvero viene caricata, funziona per 2 ore, 3 ore, quello che deve funzionare, e poi deve essere ricaricata, cioè svuotata di un po' di cenere, pulita dalla cenere e ricaricata, per cui è un funzionamento discontinuo e quindi si adatta bene ad essere utilizzata sulle cakelof, cioè le stufe ad accumulo tipo le tirolesi, le cosiddette stube, oppure sulle stufe in pietra ollare, per esempio. Però un altro campo interessante di applicazione sono i funghi da esterni pirolesi, che invece che funzionare con la bombola a gas funzionano con una carica di pellet e sono molto più economici, oppure dei barbecue pirolitici che sono molto interessanti da vedere. La pirolisi, una sorta di combustione senza ossigeno che trasforma la biomassa solida in un gas che come tale può essere bruciato con bassissime emissioni di particolato, è alla base anche della startup valtellinese PyroNTech, che ha presentato Hybrid. Sentiamo di cosa si tratta dalla voce di Flaminio Luraghi. Noi nasciamo 3 anni fa, siamo una startup autofinanziata, veniamo dal campo della gasificazione e abbiamo realizzato, diciamo, un prodotto che coniuga le cose belle sia della parte di una caldaia a biomassa e quelle di un gasificatore, l'abbiamo fuse insieme, migliorandole pure. Quindi abbiamo creato un dispositivo che mangia qualsiasi tipo di biomassa fino a un'umidità del 45% e permette di poter scaldare l'acqua di casa, quindi riscaldamento e acqua sanitaria, e prodursi pure l'elettricità. Sul fronte delle emissioni rispetto all'impianto tra virgolette normale? Siamo bassi perché abbiamo creato un algoritmo che controlla appunto la combustione all'interno del nostro reattore, e abbiamo dotato il nostro reattore di motori, azionamenti molto molto precisi derivati da altri settori. Lo sviluppo di una nuova biomassa energetica, il miscanto, una erba perenne dalla crescita molto rapida, è invece alla base della startup Planeta Renewables, di cui ci parla Pietro Banfi. Siamo una startup innovativa e lavoriamo in agricoltura. Io personalmente sono un agricoltore e la nostra idea è quella di andare a, dagli agricoltori a far coltivare questa nuova produzione agricola, ritirare la biomassa, trasformarla in vari prodotti, sia prodotti d'abrico che prodotti energetici che prodotti un pochino più particolari come bioplastiche, e poi venderle sul mercato. Quali sono i benefici che possono derivare da questa esperienza? Allora, i benefici dell'uso del Miscanthus a livello agricolo è sicuramente una migliore utilizzo dei terreni marginali. Noi non andiamo in competizione con le colture food, anzi cerchiamo di valorizzare quei terreni che sono difficilmente sfruttabili dalle aziende agricole, quindi quelli lontani, quelli poco irrigabili. Il Miscanthus si adatta molto bene a questi tipi di terreni. Dall'altra parte invece abbiamo un prodotto biologico che rientra nell'economia circolare, quindi abbiamo dei prodotti, per esempio il pellet, piuttosto che i prodotti energetici, che possono essere utilizzati proprio in questa economia circolare. Oltre alle biomasse energetiche ad hoc ci sono anche le biomasse difficili, come per esempio le deiezioni animali. E a questo tipo di biomasse che guarda la startup Kintech, come sentiamo dalla voce di Luca D'Aleo. Con questa startup adesso ci stiamo occupando di un progetto relativo all'utilizzo per produzione di calore da biomasse difficili, e in particolare stiamo realizzando un prototipo in grado di bruciare la lettiera esausta dei cavalli. Benefici che derivano, i vantaggi che si producono attraverso questa esperienza, quali sono? Beh, questa esperienza in particolare delle biomasse dà la possibilità, per esempio, a chi gestisce un maneggio, una scuola di equitazione, di rendere quello che di fatto al momento è un rifiuto e quindi ha anche un costo, di valorizzarlo per esempio produrre acqua calda sanitaria, riscaldamento dei locali ad uso ricettivo e così via. È tutto per stasera, cari ascoltatori. Io ringrazio ancora Andrea Ferro per il lavoro sul campo e do a tutti voi ascoltatori l'arrivederci. A domani.